Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Accade in tutti gli ambiti, nella politica, nella finanza, nella letteratura, nello spettacolo e naturalmente nello sport. Spesso dietro al grande successo di un uomo si nasconde la presenza insostituibile di una donna, magari una persona capace di completare il suo compagno in tutto e per tutto, che magari diventa il tassello fondamentale perché il meccanismo del successo possa girare. Vi stiamo per raccontare una storia di sport, ma al di là del campione, anzi dei campioni di cui vi parleremo, vi raccontiamo la storia di una donna che prima da moglie, poi da madre ha completato due grandi uomini della Formula 1, permettendo loro di ottenere dei risultati grazie ai quali sono passati nella storia. Oggi vi parliamo della donna che ha diviso gioie e anche dolori e tragedie, di Gilles e Jacques Villeneuve, Joanna Bart Villeneuve. Siamo in Canada, 1966, Joanna Bart è una ragazzina di 16 anni che vive a St. Thomas, un paesino del Quebec a una cinquantina di chilometri da Montreal. La sua è una famiglia povera, vive grazie ai sussidi dell'assistenza sociale, ma lei è una ragazzina con un carattere forte, un carattere intraprendente, non si lascia intimidire dalle difficoltà della vita, ha un'adolescenza normale, fatta di scuola, amiche, le prime timide storie d'amore, quelle che nascono per caso, magari dopo una appuntamento al buio organizzato da tua sorella. Organizzammo un'uscita a quattro. A mia sorella piaceva un ragazzo e così decisi di assecondarla. Ci trovammo in una discoteca e quando incontrai per la prima volta Gilles, mi sembrò subito un ragazzo timido ed educato. E Gilles è un ragazzino anche lui, ha 16 anni, è di Berthierville, una cittadina poco distante. Stiamo parlando di posti con grandi spazi, grandi strade vuote. Insomma, a 10 anni questo ragazzino ha già provato il furgoncino del padre ed è una folgorazione, perché lui impara giovanissimo a guidare nelle stradine della campagna canadese. A 16 anni ha la patente e una scassatissima Skoda con cui comincia a girare per le strade. La sua non è una guida tranquilla, perché lui è sì educato e rispettoso, ma quando sale a bordo di un autoveicolo tutto cambia e lui diventa un leone, ha una grinta terribile e non ha paura di nulla. E lo sa bene anche lei, perché da quel momento, da quell'appuntamento di ragazzini che in genere non lascia segni nella vita, lei non lo lascerà più. Non ho mai avuto paura di come Gilles guidasse. Mi ero abituata sin dal primo momento al suo modo di guidare e per me sembrava assolutamente normale. Erano gli altri a spaventarsi. Io di solito durante i viaggi mi addormentavo, tanto sapevo che con lui si poteva stare tranquilli. Beh, proprio tranquilli, magari neanche tanto, perché ci sono degli incidenti, prima con la macchina del padre, poi arriva una Ford Mustang e lui comincia a modificarla, a potenziarla, a partecipare alle prime gare di accelerazione, solo che quelle sono gare in cui la macchina va dritta, non ci sono curve e lui si annoia, e il sogno suo è scritto nelle riviste di automobilismo con le Porsche, le Ferrari, i bolidi che per il momento Gilles Villeneuve sta osservando solo sulla carta delle riviste. In Canada non ci sono molte possibilità, a meno che non inizi a nevicare, perché allora non si corre più sulle auto, si va sulle motoslitte. Siamo nel 1970, Villeneuve ha trovato un passatempo divertente per sfogare la sua voglia di velocità, le gare di motoslitte, nelle quali bisogna correre sulla neve, bilanciare il mezzo, farlo scivolare, controllarlo, insomma, si comincia a acquisire in quelle gare una sensibilità particolare che a Villeneuve farà comodo negli anni successivi. Però nel 70 c'è anche un altro avvenimento importante, perché Joanna rimane incinta, i due si sposano e qualche mese dopo nasce un bambino che si chiama Jacques. e sentiremo ancora parlare di questo Jacques. Le gare in motosleta intanto si svolgono in diverse città del Canada, così Gilles e Joanna, per non rimanere separati, decidono di comprare un motorhome, una casa mobile con la quale ci si sposta da un campo di gara all'altro e quando non si corre lo si parcheggia nel giardino a due passi da casa, e cercando così di dare, come dire, una parvenza normale a una vita concentrata tutta sulle corse. Aveva acquistato un vecchio scuolabus giallo e lo aveva diviso in due. Da una parte c'era l'officina per la motoslitta e dall'altra un letto per dormire. Quando la stanchezza per le lunghe notti trascorse per la messa a punto della slitta prendeva il sopravvento. Beh, il problema delle corse sulla neve con le motoslitte, ovviamente, che a un certo punto dell'anno la neve si scioglie, quindi non si può più correre. E qui si vede l'importanza della donna che condivide le passioni del suo compagno, perché è proprio Joanna a suggerire a Gilles di provare a trasferire le sue doti di pilota sulle automobili. Così Gilles si presenta alla scuola di guida di Jim Russell e ovviamente si fa notare, è il migliore allievo, consegue subito la patente speciale per le corse. Siamo nel 73, Villeneuve vince il campionato del Quebec di Formula Ford e continua sempre d'inverno a correre sulle motoslitte, dove ormai è considerato uno dei migliori piloti, dove addirittura ha brevettato un dispositivo di ammortizzatori che prende il nome proprio da lui. Ma se correre sulle motoslitte non richiede grandi sponsor e sforzi finanziari, le cose cambiano se sei un corridore di Formula Atlantic, perché qui bisogna avere due auto, un motore di riserva, c'è un costante bisogno di soldi, la squadra richiede un contributo anche al pilota che in sostanza deve comprarsi la macchina. Ci vogliono $70,000. Villeneuve non ci pensa due volte, torna a casa da Joanna per dirle di preparare le valigie. Un giorno si presentò a casa e disse: «Dobbiamo traslocare». E quando chiesi il perché, lui mi disse che aveva venduto la casa mobile per comprare una macchina da corsa. Gilles era una persona impulsiva in tutto quello che faceva. Abbiamo trascorso un paio di mesi con i suoi genitori e alcuni con i miei genitori e poi abbiamo comprato un camper e siamo andati su e giù per gli Stati Uniti e il Canada. È stato un momento molto felice perché eravamo liberi di fare quello che volevamo. E le gare sono sempre entusiasmanti quando alla guida c'è Gilles Villeneuve. Magari ogni tanto si va fuori strada, ma le conseguenze non sono drammatiche. Joanna Barth condivide questo mondo pericoloso, ma anche avvincente, avventuroso, anche romantico da un certo punto di vista. Lei è vicino al suo uomo, lo consiglia, a volte lo sprona, a volte però è quella che ragiona, perché per esempio gli impedisce di correre nel luglio del 74, quando lui, reduce da un incidente, si rompe una gamba. Lui vorrebbe correre con la gamba ingessata, ma è proprio lei che lo convince, è lei che detta le condizioni. Gilles può correre solo se dimostra di essere in grado di uscire dall'auto in meno di 60 secondi, il limite di sicurezza in caso di incendio. Lui si rende conto che non ce la fa a uscire in 60 secondi e accetta la volontà della moglie, attende con pazienza la guarigione completa. A volte non era facile andare d'accordo con Gilles. Ci voleva molta pazienza e bisognava dimostrarsi fermi e risoluti, altrimenti la sua passione per le corse prendeva il sopravvento. Io credo di essere stata l'unica donna che lui abbia avuto la voglia di ascoltare. Nel 77 il motorhome dei Villeneuve è parcheggiato vicino al circuito canadese di Trois-Rivières, dove si svolge una gara di Formula Atlantic, e lì ci sono anche dei piloti di Formula 1, Alan John, Patrick Tambay, Vittorio Brambilla, ma soprattutto c'è James Hunt. Villeneuve prende la pole position e vince la gara. È una gara fatta di testa a coda, di sbandate, di derapage, insomma una gara accesa. Bene, il pilota si è esaltato, ma James Hunt, grande uomo, al suo ritorno in Inghilterra consiglia a Ron Dennis, patron della McLaren, di ingaggiare quel piccolo pilota di motoslitte. In realtà con la McLaren Villeneuve corre solo un gran premio, poi gli viene preferito quello che era considerato più affidabile, Patrick Tambay, ma ad agosto il telefono del motorhome suona, risponde Joanna. Quando risposi, dall'altra parte del telefono una voce femminile parlava in inglese con l'accento italiano. «Parla la Ferrari», dissero. E io pensai a uno scherzo e risposi: «Oh sì, certo». Poi però, quando vidi Gilles rispondere a testa bassa, capii che stava parlando veramente con Enzo Ferrari. Lo aveva chiamato per ingaggiarlo. Il mitico Enzo Ferrari, il Drake, un uomo molto impulsivo che decide di ingaggiare come pilota un ragazzino che aveva guidato una sola volta in Formula 1. Sembra un azzardo, lui è convinto che Gilles sia la persona giusta. C'è chi dice che tutto nasca come ripicca al bravissimo ma freddissimo Niki Lauda, che aveva lasciato la Ferrari dicendo che le vittorie erano merito suo e non della macchina. Si dice che Ferrari abbia voluto affidare la sua auto a Villeneuve per dimostrare che anche un pilota non esperto poteva portare alla vittoria un'auto perfetta come la Ferrari. In realtà, tra Ferrari e Villeneuve si crea un legame strettissimo, forse uno dei più intimi tra il grande condottiero e il pilota canadese. Si toccano, Villeneuve resiste, ma stavolta forse è eccezionale questa corsa assieme, eccezionale, una cosa incredibile, è uscito Arnoux, avete visto, e Villeneuve è riuscito a passarlo, si toccano quasi, si sono toccati nuovamente, beh adesso Villeneuve però ha forse forzato un po', ha dovuto correggere, tutto il pubblico è in piedi, entusiasmante questa corsa, di nuovo passa Villeneuve, Arnoux resiste, si aggancia, i due se non stanno attenti, una cosa incredibile, entusiasmante, e siamo alla conclusione della corsa, vince Jabouille, c'è Villeneuve con una corsa che va ricordata, riesce a occupare sì la seconda posizione. Questo è l'audio di uno dei duelli più entusiasmanti della storia della Formula 1, Dijon 1979, un Gran Premio di Francia in cui tutti si disinteressano del fatto che il francese Jabouille stesse vincendo la gara, perché c'è una battaglia epica tra Villeneuve, che peraltro ha un motore aspirato, e René Arnoux, che ha un ben più potente motore turbo Renault. È un duello incredibile, le ruote che si toccano, piloti che escono di strada, rientrano, è un duello di grande correttezza, ma veramente mozzafiato. Joanna è ai box come sempre, perché nei 4 anni magnifici, quelli dal 78 all'82, lei è sempre lì. Villeneuve infiamma il pubblico ferrarista in pista e lei è dietro alle quinte per condividere successi e pazzie del marito. Aiutavo, mi facevano tenere i tempi. Certo, era tutto diverso da oggi, ci si arrangiava molto. Ai box, quando si cambiavano le gomme, andavo a sedermi su una di quelle ancora calde per riscaldarmi un po'. Però era bello perché sembravamo una grande famiglia. L'8 maggio del 1982, però, succede quello che Gilles Villeneuve ha sfiorato molte volte, riuscendo sempre ad avere la meglio. Siamo a Zolder, l'aviatore, sì, perché la stampa l'aveva soprannominato così per via dei suoi incidenti spettacolari. L'aviatore prende il volo per l'ultima volta e perde la sua battaglia con il destino. Gilles Villeneuve muore ed entra nel mito. Il figlio Jacques ha 11 anni, ma nel suo sangue scorre la stessa passione di suo padre. Insomma, per Joanna, il suo rapporto con la Formula 1 non è ancora finito. Stiamo raccontando la storia di una grande donna, Joanna Barthe Villeneuve, la moglie di Gilles Villeneuve e la madre di Jacques Villeneuve. Padre e figlio, accomunati dalla stessa passione, quella per le corse, per la Formula 1, passione che nel caso di Gilles Villeneuve si interrompe tragicamente l'8 maggio 1982 con l'incidente di Zolder. Un ricordo indelebile per tutti gli sportivi, in particolare per quelli della Ferrari, ma per tutti gli amanti del vero sport. Gilles Villeneuve diventa un mito che nessun pilota a Maranello è ancora riuscito a offuscare. Quando Gilles morì, per Enzo Ferrari fu come se fosse morto un figlio. Per molto tempo è stato vicino a me e ai miei figli, certo, a modo suo, perché non era un tipo che si lasciava andare facilmente. Però si è sempre interessato in modo che per me e per i ragazzi tutto andasse per il meglio. Ma 2 anni dopo la morte del marito, della morte di Gilles Villeneuve, Joanna deve affrontare un nuovo problema, qualcosa a cui non è preparata, ma che forse in cuor suo si aspetta. Perché Jacques ha 13 anni e i primi 11 anni di vita li ha trascorsi in un motorhome, guardando da bordo pista il padre passare dal velocissimo sulle piste di tutto il mondo. Insomma, è arrivato il momento per lui di provare a emulare quel padre che se n'è andato così presto. Insomma, chiede alla madre di poter correre sui kart e per affrontare certi argomenti ci vuole comunque un colpo d'ala. Joanna ritrova negli occhi del figlio la luce che ha brillato negli occhi di Gilles. Cerca di scoraggiarlo, sa che Jacques odia la matematica, gli promette di accompagnarlo alla pista di kart di Imola solo se i suoi voti fossero stati eccellenti, e perde la scommessa perché Jacques, pur di salire su quel kart, studia anche matematica. Insomma, la sua carriera sta per avere inizio. Dopo aver fatto delle prove a Imola sui kart, suo zio lo iscrisse alla scuola di Jim Russell, la stessa di suo padre. Anche lui risultò il migliore del corso e a 17 anni riuscì a conseguire la patente. Non poteva guidare una normale automobile, ma poteva correre la 500 di Indianapolis. Insomma, Joanna si trova ancora una volta coinvolta in quel mondo dove ha vissuto delle emozioni così grandi fino all'ultima emozione terribile in negativo. Però il suo grande colpo d'ala è quello di capire che certe passioni non si possono bloccare. Così era stato per Gilles, con la sua pazzia lucida nel guidare sempre alla ricerca di un limite da battere e da superare, come quella volta in cui durante un violento temporale aveva convinto Joanna a salire sul suo elicottero. Quella fu l'unica volta in cui ebbi paura. Prendemmo l'elicottero mentre pioveva e con un vento fortissimo. Gilles saliva in alto per poi inserire il pilota automatico. Voleva vedere fino a che punto l'elicottero avrebbe resistito in balia del vento. Ricordo che fu un continuo saliscendi. Lui si divertiva, io lo capivo, ma quella volta fu davvero difficile. La carriera di Jacques Villeneuve inizia alla guida delle Alfa Romeo, in una categoria dove già ci sono piloti forti, Johnny Cecotto, Marco Baldi. Jacques indossa un casco con gli stessi colori che usava suo padre. Questo fa molta impressione, perché un ragazzo di 17 anni deve avere molto coraggio, ma anche spirito di competizione per fare una cosa del genere. Poi c'è il passaggio alla Formula 3, insomma si ripete la stessa storia. Joanna che accompagna il figlio minore da un gran premio all'altro, sempre sotto la luce dei riflettori, sempre nel ricordo di Gilles. All'inizio lo seguivo sempre, anche perché non aveva la patente per guidare sulla strada. Però per lui deve essere stato difficile, perché ogni volta che arrivavamo ad un circuito c'era molta attenzione su di lui, ma anche su di me. Tutti mi facevano sempre le stesse domande su Gilles e io desideravo allontanarmi da questo mondo, ma non potevo, perché volevo soprattutto proteggere Jacques. E la pressione della stampa è sempre più forte. Jacques decide di allontanarsi da quell'ambiente che lo mette continuamente a confronto con il ricordo del padre. Così va in Giappone, poi negli Stati Uniti in Formula Atlantic, poi la Formula Indy, dove riesce a vincere la 500 miglia di Indianapolis del 95 in una corsa spettacolare. The magnitude of his achievement. Listen to the roar of the crowd. Back from two laps down. Only his second year. One more turn. The first Canadian on his way to winning the Indianapolis 500. Jacques Villeneuve on the home stretch. And the 79th Indy 500 has been won by Jacques Villeneuve. As Ari Lyndike screams by on the outside, the young Canadian has taken the win. L'auto con cui Jacques Villeneuve taglia vittorioso il traguardo non è una Ferrari. La carrozzeria è bianca e azzurra, ma c'è un segno distintivo inconfondibile. C'è un marchio di fabbrica che fa tornare alla mente tutti i ricordi di una vita con un brivido, perché c'è il numero 27, quello stesso numero con il quale il padre aveva infiammato i cuori dei tifosi ferraristi. Jacques porta il numero 27 sulla sua macchina. È un legame che deve unire un padre e un figlio. A differenza di quello che era successo con Gilles, Joanna Bart decide di non seguire il figlio nelle corse, non vuole attirare l'attenzione su di sé, ovviamente ha anche dei ricordi belli e terribili con i quali deve convivere. Quando Jacques Villeneuve approda la Formula 1 nel 96 a 25 anni, ha una carriera affermata in America, non deve più dimostrare niente a nessuno, anche perché i giornalisti hanno smesso di parlare di lui come il bambino che vuole emulare il padre. E l'unica speranza che tutti avrebbero sarebbe quella di vederlo un giorno alla guida di una Ferrari, cosa che non è mai accaduta. Anche Jacques, peraltro, ha imparato a rispondere ai giornalisti esorcizzando il continuo ricordo di suo padre. Stare sotto pressione aiuta a fare meglio, ma io ho bisogno qualche volta di allontanarmi dal mondo delle corse, trovare qualcosa da fare per un paio di giorni, sciare, giocare ai videogame, ricaricare le batterie lontano dai meccanici e dai fan. Un po' come quando vuoi staccarti qualche giorno da tua madre. E in queste parole c'è la grande differenza tra il padre e il figlio. Per Gilles il mondo ruotava tutto attorno al mondo delle corse. C'era l'aereo, l'hotel, le prove, la gara e poi un altro aereo. Mentre Jacques ha un modo di fare meno compulsivo. C'è dell'altro oltre ai motori. C'è anche una vita da assaporare senza questo tipo di pressione. Oggi il mondo delle corse è fatto non solo da meccanici e piloti. Ci sono ingegneri, progettisti, tutto è ridotto a formule matematiche sui consumi, sull'usura, sull'aerodinamica, e poi ci sono gli sponsor che portano i piloti da un evento all'altro come un po' dei burattini silenziosi. Forse il mondo della Formula 1 di Gilles Villeneuve era più pericoloso, però sicuramente era più poetico. Il 1997 è l'anno della consacrazione per Jacques Villeneuve. Dopo una stagione testa a testa con Michael Schumacher, che è a bordo di una Ferrari, la Williams di Villeneuve vince il campionato, riesce a offuscare la stella di Schumi con il famoso tentativo del tedesco all'ultimo Gran Premio di tagliare la strada a Villeneuve per farlo uscire di carreggiata, per non fargli prendere i punti necessari a superarlo in classifica. Dopo questa vittoria Villeneuve corre ancora 9 stagioni in Formula 1, ma con un'auto sulla quale c'è da lavorare, un'auto non di vertice, la Bar, poi la Sauber, insomma per lui salire sul podio diventa impossibile, ma rimane quel campionato mondiale, il campionato mondiale che il padre non era riuscito a vincere. Oggi Jacques non corre più in Formula 1, fa il commentatore televisivo, forse adesso Joanna Bart ha finalmente finito di preoccuparsi. Essere la moglie e la madre di un pilota è stato molto difficile. Quando avevo 16 anni, con Gilles tutto era più facile. Eravamo degli incoscienti e per noi tutto era un divertimento. Da madre ho vissuto la carriera di Jacques con più preoccupazione, ma consapevole del fatto che non potevo fare nulla per spegnere una passione che è più forte di qualsiasi cosa. Nel 2012, sulla pista di Fiorano, Jacques ha guidato la Ferrari 312 T4 di suo padre, ha indossato il suo casco e molti si sono commossi vedendo ancora una volta quell'auto percorrere la pista. È stata sicuramente una sensazione forte, sia per chi guardava, ma sicuramente anche per chi su quell'auto stava guidando. Della carriera di Jacques, l'immagine più bella probabilmente è quella di quel podio del Gran Premio 96 a Imola, la sua prima vittoria in Formula 1. Al secondo posto c'è Schumacher, la tuta rossa della Ferrari c'è la lui, c'è la Schumacher, ma tra il pubblico ci sono centinaia di bandiere Ferrari che Joanna vede sventolare. Queste bandiere salutano la vittoria del figlio del canadese che ha conquistato il cuore di Maranello, non il secondo posto del freddo Schumi. Insomma, sono sensazioni molto forti. Joanna Barth Villeneuve, una vita piena di colpi d'ala, vissuti magari non da protagonista, ma una vita nella quale lei è stata indispensabile a due grandissimi piloti. E noi vi aspettiamo con altre storie, segnalateci, e se conoscete qualcosa che secondo voi merita di essere raccontato, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it e interagite sul sito di Radio 24, sui miei Facebook, Twitter, sui social del Falco il Gabbiano, insomma lo sapete, se mi cercate mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.